vivo a scoprirmi e ritrovare quanto già scritto da prima. Se penna o martello a battere o scrivere nato, saprò dei miei sogni e piaceri e quanto d'intorno mi accade, che spesso la palla è non giocare. Sdraiato sull'onda del senso, le dita del tempo futuro, vedo affondare la crema presente, e quale artigiano ad uso ai dolciumi, li cedo arricchito al passante, già naufrago dietro in questo mare. We'll be right back.